24 mattino di Alessandro Milan. Alle 7.21 si chiude la settimana, l'ultima puntata della settimana di 24 mattino, in diretta fino alle 9, siamo anche in diretta su Facebook, ci trovate con questa dicitura, 24 in numero, tratto, mattino, spazio, mattino, 24 mattino, è semplice perché ci scrivono non vi troviamo, non è difficilissimo, 24 mattino. E allora da cosa iniziamo? Dai giornali, ma prima voglio ricordare il sondaggio di oggi. Ebbene sì, io ho promesso la Ola se ci tolgono l'emendamento del mille proroghe che prevede il condono per i manifesti abusivi in campagna elettorale, la Ola davanti al Quirinale, di giubilo. Temo non ci sarà. Quell'emendamento è rimasto. Ma ne parleremo oggi nel sondaggio. Il condono per i manifesti elettorali abusivi. È una cosa che vi stupisce? Questo vi chiediamo, votate su radio24.it, alle 8.30 avremo uno dei due proponenti dell'emendamento che prevede questo condono. Ci spiegherà il perché. Intanto i giornali. In primo piano. La Libia, sempre la Libia. Riad fornirà più petrolio, questo è il titolo di apertura del Sole 24 Ore, ma poi Tripoli alla battaglia finale per il Corriere. I ribelli marciano su Tripoli per Repubblica, i ribelli puntano su Tripoli per La Stampa. Oppure Libero, la Fallaci aveva ragione. Sono questi titoli di apertura sulla Libia. Ci sono scelte diverse di altri quotidiani che vedremo più avanti, ma le segnalazioni da cui voglio partire sono due. La prima proviene dalla Stampa, pagina 26. In casa due gatti o un cane grande? Ordine del sindaco. È una vicenda raccontata in due pagine da Anna Sandri e che proviene da un paesino di 3.300 anime, Sorgà, in provincia di Verona, dove il sindaco Giovanni Battista Bazzani ha varato un regolamento che sta già facendo molto discutere perché vuole fissare un tetto massimo per i cani e i gatti da tenere in casa. Se uno ama i cani ne può tenere uno di grossa taglia oppure due di piccola taglia. Se uno vuole i gatti, mai più di due. Ovviamente gli animalisti si sono già scatenati, hanno chiamato a raccolta i simpatizzanti incitandoli a presentarsi con i cuccioli di famiglia e i fischietti in bocca sotto il municipio, ma il sindaco, che peraltro di cani ne ha tre, ma dice uno è uno Yorkshire, a me piacciono più di quelli di taglia grossa, e ha anche quattro cavalli, ma dice io almeno ho lo spazio, dice ma che problema c'è? Già la regione regolamenta il fatto che si stabilisca il numero massimo di animali da detenere in una civile abitazione, sono massimo 5 cani e 10 gatti, accidenti, 5 cani e 10 gatti. Però il sindaco giustamente dice, ma che vuol dire civile abitazione? Se io ho una casa di 60 metri quadri posso tenere 5 alani in un appartamento del genere? Forse se uno li ha nel mio paese potrei anche preoccuparmi, oppure no. Insomma, in casa due gatti oppure un cane grande, questo l'ordine del sindaco, arriva al tetto massimo per gli animali domestici. Perfino al ministero si sono preoccupati, dopo le proteste degli animalisti l'hanno chiamato a dire ma che sta succedendo in quel di Sorgà, in provincia di Verona. Ve lo racconta La Stampa. E poi, vabbè, io non potevo non citarla, è stata la controcopertina anche del GR, ma oggi è ripreso anche da qualche giornale, in realtà lo lancia Quattro Ruote come notizia, ma viene ripreso dal Messaggero e dal Secolo XIX in prima pagina. Cosa ha combinato il prefetto di Milano, Gian Valerio Lombardi? Ha preso una multa e ha fatto, con decurtazione di 2 punti della patente, ha fatto ricorso a chi? Al prefetto, cioè a se stesso. L'auto multata per divieto di sosta e il prefetto si fa ricorso da solo. Questo anche in prima pagina del Secolo XIX la mettono addirittura sotto la dicitura Italia cialtrona. Il prefetto multato fa ricorso a se stesso. Che è successo? L'auto si guasta improvvisamente, il signor prefetto, un normale cittadino, non trova di meglio che sistemarla nel posteggio per disabili, poi va a teatro come un qualsiasi normale cittadino. L'inflessibile Ghisa, cioè il vigile di Milano, arriva, multa l'auto, sanzione, decurtazione di punti della patente. Il normale cittadino non ci sta, sostiene che l'auto era guasta e fa ricorso al prefetto, ovvero a se stesso. non fosse vera, scrive il secolo XIX, con prove documentali e conferme, verrebbe da pensare a una puntata di Scherzi a parte. Invece il prefetto di Milano Gianvalerio Rombardi è realmente protagonista di questa vicenda. Lui in realtà si difende dicendo, appunto, si è guastato il motore, ho lasciato lì l'auto ma era in panne. E poi dice: ho pagato regolarmente la multa, ho fatto ricorso solamente per evitare la decurtazione di punti, perché appunto la macchina era in panne. Vabbè, insomma, il prefetto scrive a se stesso per farsi togliere la multa. In realtà non si è fatto togliere la multa, ma ha sospeso la decurtazione dei punti. Aveva l'auto sul posto dei disabili, ma si era guastata. Questo sul secolo XIX, sul Messaggero, anche questo è uno piccolo strappato, di spaccato di Italia. Ci fermiamo per la pubblicità. In primo piano. Come detto, ancora su tutte le prime pagine dei giornali c'è ampio spazio per la Libia, con alcuni spunti che vi voglio segnalare dai quotidiani. Beh, intanto la cronaca da parte del Corriere della Sera di Fabrizio Caccia, uno degli inviati, che racconta di come un posto di blocco sia stato, era un posto di blocco nel quale si è presentato con altri colleghi come il collega di Repubblica Vincenzo Nigro, Guido Ruotolo della Stampa, ma lui ha appena detto: sono italiano, vengo malmenato, dico semplicemente questo, mostro il passaporto, la parola italiano, c'è un'esplosione terribile di rabbia. Mi colpiscono al volto, fanno volare via gli occhiali che rimangono intatti, mi lasciano sordo per un po' all'orecchio destro, poi mi portano in un gabbiotto al lato della strada dove davvero tema che possa concludersi il pestaggio. Per fortuna, grazie però anche all'intervento dei miei colleghi che riescono a spiegare con pazienza la nostra completa inoffensività, lentamente la matassa si sbroglia. Anche su Repubblica viene scritto da Vincenzo Nigro: colpito al volto e preso a calci il cronista del Corriere della Sera, poi viene tutta risolta la situazione. Ma insomma, questa capire a dimostrare che la situazione è anche di grande tensione, ci sono posti di blocco, ci sono esponenti dell'esercito, della polizia che pare abbiano lasciato la divisa, ora si improvvisano posti di blocco un po' ovunque. C'è anche il mistero di Gheddafi, questa voce, questo audio che abbiamo sentito anche nel GR, un messaggio audio dal bunker, ma già si sparge il giallo sulla voce, non è lui. Qualcuno dice, tra l'altro ieri in serata si era sparsa la voce, poi smentita, che qualcuno l'avesse anche ucciso, che fosse stato ucciso, che gli avessero sparato. Insomma, come al solito, ora la situazione è anche confusa da questo punto di vista. Gli altri spunti che voglio dare, che trovate sui giornali, sono la questione che abbiamo trattato ieri del possibile arrivo massiccio di persone che non sono solo persone libiche, ma che attraverso l'Africa arrivano in Libia e ora possono partire dalle coste per arrivare in Italia. Maroni chiede aiuti, l'Europa è divisa. Così Adriana Cerretelli racconta la cronaca di ieri a Bruxelles, dove il ministro Maroni è andato per cercare di concertare un aiuto con tutti gli stati membri dell'Unione Europea, ma la sensazione è che l'Italia, almeno sul Corriere, se sul Sole viene data per divisa, per il Corriere della Sera è Italia per ora avanti da sola. Strutture senza vigilanza, questa è l'idea che Fiorenza Sarzanini racconta a pagina 9, con la possibilità per gli stranieri di allontanarsi dai centri di accoglienza. Questa è la prima idea di i possibili centri che verranno allestiti. Certo, chiunque avesse una fedina penale da criminale verrà messo temporaneamente nei centri di identificazione e espulsione, ma l'idea dei profughi è quella dei centri per i profughi, è quella di fare dei centri un po' così aperti, nei quali le persone possono anche andare in giro. Sì ai centri senza vigilanza, questo si prospetta in Italia. E poi l'altro aspetto che viene trattato dai giornali con molta più convinzione oggi è quella della opzione militare che si profila. Gli Stati Uniti dicono per il momento non è esclusa l'opzione militare, anche se non è allo studio. O meglio, se è allo studio per il momento non viene per nulla confermata, ma attenzione, perché questo è il tema che tratterà Oscar Giannino, tra l'altro, alle 9, cioè l'idea di una possibile opzione di intervento militare. Il Foglio ci apre: occupare Tripoli, che può succedere se la NATO decide di sbarcare in Libia? Il Foglio, tra l'altro, intervista un analista militare, un generale, o meglio due generali dell'esercito, un responsabile dell'organizzazione umanitaria InterSOS, Nino Sergi, per cercare di capire in tutta una pagina ecco come in 10 giorni si potrebbe organizzare con in prima fila Italia e Francia la liberazione della Libia. Insomma, l'opzione militare comincia a non essere esclusa e comincia a profilarsi sui giornali, tanto che Il Manifesto la mette in prima pagina con questo editoriale di Tommaso Di Francesco dal titolo "Verso un'altra guerra umanitaria". Siamo ai prodromi di un'altra guerra umanitaria che andrebbe ad aggiungersi a quella già sul campo, stavolta in Libia. La NATO dichiara che non è all'ordine del giorno per ora, l'Unione Europea che nemmeno ci pensa, il ministro della difesa italiano La Russa che non è nei nostri pensieri però, ma ci stanno pensando, dice Il Manifesto. E Il Manifesto tra l'altro dice: questo succede quando c'è un significativo livello di menzogne da parte dei media, ancora una volta embedded, fosse comuni che appaiono quando in realtà sono fosse individuale. Un salto improbabile in 12 ore dalle 1000 alle 10.000 vittime, secondo l'americanissima televisione Al-Arabiya. Flash di foto di corpi senza vita, l'invenzione di un esistente membro libico della Corte Penale Internazionale rigorosamente antiregime che moltiplica per 50.000 il numero delle vittime e dei feriti. Effettivamente c'è ora questa polemica, comincia a profilarsi sui giornali, ieri la Zanzara Giovanardi, sottosegretario, l'ha detto e scatenando anche una bufera che viene ripresa anche oggi dal Sole a pagina 5, cioè queste immagini, le fosse comuni. Sono davvero fosse comuni quelle che sono state mostrate in tutto il mondo? Oppure sono qualcos'altro? Chi lo sa? Cioè, è chiaro che vale la prima regola di tutti gli inviati di guerra, come sempre, che la prima vittima in teatri di guerra è sempre, inevitabilmente, la verità. Andare a cercare di capire quello che sta succedendo realmente è difficile. Segnalo ancora sulla Libia che sul Fatto Quotidiano Emma Bonino, vicepresidente del Senato, dice: Gheddafi si può fermare con la forza dell'ONU e tira in ballo la Corte Penale Internazionale. Questo lo cito perché vi ricordo che alle 8:20 per l'intervista avremo ospite il giudice italiano della Corte Penale Internazionale Kuno Tarfusser, che ci spiegherà se davvero Gheddafi a questo punto è perseguibile, se è incriminabile, crimini di guerra o genocidio addirittura. Poi Oscar Giannino ne parlerà alle 9 di Libia. Veniamo alle cose della politica italiana che trovate sui giornali. Beh, certo, e suscita polemica e dibattito politico la doppia intervista di Fini a Danno Zero e sull'Espresso oggi. Cosa ha detto Fini? Beh, ha attaccato Berlusconi, non è l'unto del Signore, scatena conflitti istituzionali permanenti, ha definito ridicolo il bacio all'anello di Gheddafi. Insomma, un Fini che, messo all'angolo per le defezioni di Futura Libertà, attacca duramente, tanto che nel retroscena di Repubblica di Francesco Bei c'è un Berlusconi che chiede la censura del Colle. Questo avrebbe detto Berlusconi: a noi il Quirinale ci fa le bucce su ogni virgola di provvedimento, mentre se il Presidente della Camera dileggia il Presidente del Consiglio e se la prende perfino con le decisioni della stessa istituzione che sarebbe chiamato a tutelare, nessuno dice nulla. Due pesi e due misure. Cioè un Berlusconi che sarebbe infuriato per questi continui attacchi reiterati in queste interviste di Fini a lui stesso, e che dice: il Quirinale sta zitto e non dice nulla. Anche se il tema politico più sviluppato dai giornali, tanto che l'Unità lo mette in prima pagina con questa dicitura, questo titolo: così hanno provato a comprarmi, torna sulla ribalta della politica la denuncia di compravendita. Questa volta è tale onorevole eletto in Canada Gino Bucchino che dice: mi hanno offerto 150.000 euro per passare ai responsabili. Lo trovate un po' su tutti i giornali, eh? Carmelo Lopapa lo mette in prima pagina di Repubblica, ecco qua. Un bonifico anche, 150.000 euro, rielezione garantita. Chi è l'intermediario che avrebbe incontrato questo Gino Bucchino a nome di Denis Verdini, che dice tutto falso, lo querelo, eccetera, sarebbe questo socialista Giuseppe Graziani, che Repubblica intervista, pagina 17, dice: sì, è vero, l'ho incontrato, ho incontrato lui, ho incontrato anche altri, ma le pare che se avessi 150.000 euro a disposizione li darei a Gino Bucchino? È un'accusa infamante dalla quale mi difenderò con i miei avvocati. Ah, e tengo a dire una cosa: mai avuto una multa in vita mia. chissà che c'entra, vabbè, insomma. Comunque questo socialista Giuseppe Graziani dice: sì, l'ho incontrato, era un gesto autonomo per cercare di ricostituire una forza di sinistra socialista, riformista, con un progetto autonomo dalle procure della Repubblica, ma assolutamente nessuna offerta di denaro. Vabbè, torna questo tema dell'offerta di denaro, chissà, chissà no. Anche se per quel che riguarda il retroscena della politica, più interessante è quello di Ugo Magri a pagina 13 della Stampa, la prescrizione breve per salvare Berlusconi, perché sullo sfondo c'è tutto il dibattito sulla giustizia, sulle date dei processi al premier che incombono. E Ugo Magri scrive: con tipico cinismo romano, un vecchio squalo di Montecitorio coglie l'aspetto paradossale dell'ultimo scandalo vero e presunto. Hanno provato a comprare, dice l'onorevole Bucchino, con 150.000 euro. Tre mesi fa ne offrivano 750.000. Siamo ai saldi di fine stagione. Semmai, scrive Ugo Magri, nei prossimi due mesi si gioca il tutto per tutto Berlusconi. O blocca i giudici con qualche intervento legislativo, oppure la condanna penale è garantita al limone. Attenzione però, quello che sconvolge non è la sentenza su Ruby. I suoi avvocati l'hanno convinto che il processo breve, tanto breve non sarà. Facile che giunga prima al traguardo quello su Mills. Si parla di settembre-ottobre. Il premier ha un'assoluta certezza: sarà un plotone di esecuzione. Non mi daranno scampo. Dunque, scrive Ugo Magri, ricapitolando, dal 6 aprile sfilata di escort al processo milanese su Ruby, con grande sollazzo mediatico mondiale. Corre voce che anche tra i politici che il PM Woodcock da Napoli sia pronto ad aggiungere un ulteriore filone pecoreccio all'inchiesta milanese. E dopo l'estate il colpo di grazia con la condanna per corruzione di testimone. Ma Berlusconi, come Gheddafi, vuole vendere cara la pelle, per cui l'ordine di scuderia è: cerchiamo subito, fin tanto che c'è la maggioranza, la scappatoia giuridica. Ed ecco la classica legge ad personam che sarebbe spuntata. L'idea più gettonata tra i consiglieri consiste nella prescrizione abbreviata di un quarto per tutti coloro che siano incensurati. E Berlusconi, guarda caso, lo è. Si arriverebbe, scrive Ugo Magri, al confronto in Parlamento stile guerra atomica. Col Colle si arriverebbe alla stretta definitiva col Quirinale, ma a Palazzo Grazioli, vicino all'entourage del premier, dicono: tant'è. Il traffico in primo piano nella bufera è anche in questo momento dalle cronache giudiziarie Nichi Vendola, il governatore della Puglia, perché questo è il titolo di apertura del giornale: sgominata la banda del PD. Allora, la vicenda è che è stato richiesto l'arresto per l'ex assessore alla sanità della regione Puglia Tedesco, che nel frattempo è diventato senatore. Dunque, per richiedere l'arresto ora ci vorrà tutta la trafila, il Senato si dovrà esprimere. La procura chiede l'arresto del senatore Tedesco, in cella anche il capo della scorta di Vendola, che resta inquisito, così scrive il giornale. La vicenda è di una riguarda la sanità della Puglia. E tra l'altro io voglio segnalare che curiosamente il giornale che più attacca, o meglio che pubblica le intercettazioni in maniera più diffusa degli altri, è Repubblica. Dunque, insomma, eccolo qua, le nomine ASL di Nichi, a pagina 26. Quello non è idoneo? Cambiamo la legge. Sono le intercettazioni a firma Mara Chiarelli e Giuliano Foschini, che raccontano appunto di questo sistema clientelare, secondo la procura, fatto di una lottizzazione sistematica per le nomine di primari e manager dell'ASL, che prevedeva un'adesione incondizionata e supina alle richieste politiche da parte dei manager scelti dalla giunta. E c'è allora questa intercettazione, quella che farà più discutere per quel che riguarda la posizione di Nichi Vendola. 20 novembre 2008 il presidente della regione parla con l'assessore Tedesco, quello per cui ora è stato richiesto l'arresto, e scrive il GIP: pur di sostenere il suo protetto, il governatore pretende il cambiamento della legge per superare con una nuova ad usum Delfini gli ostacoli che la norma frapponeva alla nomina. Vabbè, insomma, i giudici scrivono con questo italiano del 1200. Però ecco, questa è l'intercettazione. L'assessore Tedesco: quello non ha i requisiti, sta come direttore generale, quello che vuoi nominare. E Vendola: oh Madonna santa, porca miseria, la legge non la possiamo modificare? Non possiamo modificare la legge in una delle prossime? E poi puntini puntini. Insomma, questa è l'accusa. E anche sull'unità, le pressioni di Vendola, il ruolo di Emiliano nelle carte dell'inchiesta barese, gli interventi del presidente della regione per far rimuovere il direttore di un'azienda sanitaria. Poi su Libero, cioè mi incuriosisce più sull'unità, su Repubblica, certo, su Libero il giornale è abbastanza prevedibile, insomma, sistema Vendola, questo su Libero l'attacco. Veniamo all'altro tema politico del mille proroghe, e qua la voce si fa greve, perché non ce la facciamo, cari ascoltatori 24 mattino, il mille proroghe che oggi viene approvato alla Camera, domani al Senato, perché se no scade, va approvato, state fatte tutte le modifiche richieste da Napolitano, ma tra le modifiche, ve lo dico già subito, non è stato tolto e quindi è ancora lì, in bella evidenza, l'emendamento bipartisan, firmato da due senatori, uno del PD e uno del PDL, che prevede un mega condono per le affissioni abusive durante la campagna elettorale. È un gran classicone di ogni campagna elettorale, è stato fatto anche stavolta. Io, ripeto, ho promesso la ola davanti al Quirinale, se ce la facevamo a togliere questo emendamento, l'emendamento rimane. Ma ne parleremo nel sondaggio delle 8.30, vi spiegheremo tutto. Che cosa fa discutere soprattutto di più nel mille proroghe questo emendamento su TV, giornali, una proroga mini? Il Sole 24 Ore, a pagina 11, è stato esteso solo fino al 31 marzo il divieto di acquisizione di giornali da parte di gruppi televisivi. Sarà valido solo fino al 31 marzo, con la possibilità di che il termine possa essere differito ulteriormente con un decreto della Presidenza del Consiglio. Per l'unità è già tutto chiaro, è l'attacco al Corriere da parte di Berlusconi, al Corriere della Sera. È il via libera a Mediaset, al Premier e alla famiglia perché possa allargare l'impero sulla carta stampata e mettere le mani sul Corriere della Sera, questo a pagina 8 dell'unità. Staremo a vedere. Sta di fatto che Libero cita la casta che non taglia i regali alla politica, eccolo qui, sono salvi, la sanatoria dei manifesti elettorali è salva nel decreto mille proroghe, purtroppo ne parleremo alle 8.30. Che c'è ancora da citare? Beh, in conclusione un bel articolo di Sergio Rizzo di una norma che è spuntata, ne parla a pagina 13, enti a scuola di federalismo 10 milioni di spesa. Ai disfattisti accaniti contro la riforma dell'università Gelmini deve essere sfuggito, come a loro deve essere sfuggito anche a chi si lamenta che il federalismo fiscale rischia di essere un guazzabuglio difficile da capire. Ebbene, è spuntato un finanziamento di zecca. 2 milioni all'anno per 5 anni, un totale di 10 milioni di euro, da destinare a uno scopo particolare, spiegare ai dirigenti degli enti locali i segreti del futuro federalista. Ci credereste? Chiede Sergio Rizzo. C'è scritto nell'articolo 28 del mille proroghe. Servono al ministro, della riforma all'università, servono al ministro per concedere contributi per il finanziamento di iniziative di studio, in tutto 10 milioni, che verranno dati non agli Atenei per spiegare il federalismo, ma a due università, una nella regione meridionale e una al nord. Insomma, una norma fatta apposta per distribuire un po' di soldi, 10 milioni, a un'università, una del nord e una del sud, scrive Sergio Rizzo. Quali sono queste università? La riforma Gelmini dice che a individuarle ci penserà il ministero. Quanto al modo che verrà seguito è del tutto misterioso. E poi si chiede Sergio Rizzo, ma perché le università devono essere proprio due, di cui una al sud? Forse che per un amministratore di Agrigento è più facile raggiungere, poniamo, Bari anziché Roma? O per un sindaco friulano è più agevole recarsi in una città del nord invece che a Roma? E poi si chiede Sergio Rizzo, ma perché questi 10 milioni destinati alle università per spiegare il federalismo? Non disponiamo di una magnifica scuola superiore di economia e finanza, la struttura più idonea a dare lezioni di federalismo fiscale? Coloro che hanno fatto la riforma dovrebbero essere loro deputati a spiegarla? E invece no, enti a scuola di federalismo, ecco spuntati 10 milioni di euro per finanziare due università che dovranno spiegare il federalismo agli enti locali. Così sul Corriere, ci fermiamo per il GR. 24 mattino, l'intervista. Siamo qua, ben ritrovati da Alessandro Mina alle 8.23. Voglio salutare per la nostra intervista il procuratore che stiamo cercando di contattarlo. In realtà la linea è caduta proprio in questo istante. Parliamo di Libia e parliamo di Gheddafi nella nostra intervista, se riusciamo a raggiungere il giudice della Corte Penale Internazionale all'Aia. È il giudice Kuno Tarfusser, che è stato procuratore a Bolzano, capo a Bolzano, ed è in linea con noi. Dottor Tarfusser, buongiorno. Buongiorno. Eccoci qua, abbiamo avuto qualche problema di linea. Dottor Tarfusser, le chiedo questo: Gheddafi è incriminabile alla Corte Penale Internazionale dell'Aia? Allora, io cerco di usare concetti semplici e a tutti comprensibili. E allora devo fare questa brevissima premessa. La Corte Penale Internazionale fonda la sua giurisdizione e quindi il potere di giudicare chi è accusato di avere commesso crimini contro l'umanità, crimini di guerra e genocidio, su un contratto tra Stati, che è si chiama lo Statuto di Roma. A questo consegue che solo gli Stati e i cittadini di questi Stati che hanno sottoscritto questo contratto sono soggetti alla giurisdizione della Corte e quindi possono essere perseguiti dalla Corte e giudicati dalla Corte Penale. La Libia l'ha firmato? Aspetti, ad oggi hanno sottoscritto questi contratti solo 114 Stati su 192 e la Libia non è tra gli sottoscrittori di questo contratto, quindi noi di iniziativa non possiamo fare nulla. Ci sono però due strade che permetterebbero comunque alla Corte Penale di attivarsi e quindi di intervenire. La prima strada è che lo Stato, e quindi la Libia stessa, lo Stato che non ha firmato il contratto, accetta la giurisdizione della Corte. Questo evidentemente potrebbe succedere solo nel caso di un governo nuovo. Sì, certo. La Libia ci chiama in causa e ci chiede di intervenire. La seconda è la decisione del Consiglio di sicurezza dell'ONU, di cui ovviamente la Libia è membro, che emette una risoluzione con cui ci investe della questione, così analogamente a come è accaduto con il Sudan. Sì. Quindi queste sono le due strade possibili. Quindi uno, che la Libia lo chieda, evidentemente una Libia post Gheddafi, oppure che l'ONU, che il Consiglio di sicurezza dell'ONU, si muova in questo senso. Si muova e ci dia, evidentemente non ci devono essere veti o quant'altro, ma che metta una risoluzione in cui investa la Corte Penale di questa. Ma per che cosa potrebbe essere incriminabile? Crimini di guerra, si parla anche di genocidio, e poi come raccogliere le testimonianze, perché non è facile. Questo è il secondo problema. Adesso così i reati che mi vengono in mente a me pare molto, molto vicino ai crimini contro l'umanità, così direi, per quanto si capisce e si legge, perché non poi sai, qui i confini tra i diversi crimini sono spesso molto sottili, quindi è una questione molto tecnica, ma non è questo il punto, perché in effetti poi le sanzioni rispetto a tutti questi a tutti e tre questi crimini sono analoghe, quindi non è questione dell'uno o dell'altro crimine. Il problema è quello di intervenire anche sotto il profilo penale, e questo può succedere solo attraverso questi due strumenti, che noi chiamiamo i triggering mechanisms. Certo, cioè l'intervento dell'ONU oppure che la Libia stessa intervenga. Senta, dal punto di vista della difesa potrebbe essere quella di Gheddafi, ma io ho le relazioni con i vari stati, ho le relazioni, per esempio, il trattato italo-libico, cioè porre questo tipo di difesa, come dire, sono una persona istituzionalmente e internazionalmente riconosciuta e dunque... Però una persona internazionalmente riconosciuta non può commettere crimini, cioè questo non vale rispetto alla giurisdizione internazionale, può valere rispetto ai rapporti diplomatici, politici diplomatici, ma non certo rispetto ai rapporti che giuridici, giurisdizionali o comunque all'interazione con la Corte Penale. E le chiedo infine, cosa aspetta l'ONU a muoversi? Perché spesso si parla di inazione o di lentezza nell'azione. L'ONU, non so, non sta a me dire cosa aspetta l'ONU, è un organo, evidentemente il Consiglio di sicurezza, adesso io non so cosa sta succedendo in questi momenti, in questi giorni all'ONU, credo che ci sia molto fermento, ma è evidente che il Consiglio di sicurezza è l'organo, diciamo, politico, è il governo dell'ONU, quindi credo che abbia anche una serie di problemi retrostanti che non sta a me giudicare, che deve risolvere prima di poter arrivare a una risoluzione. Beh, ci sono gli equilibri, evidentemente degli equilibri tra componenti del Consiglio di sicurezza da tenere presente. Mm. Ci sono anche i diritti di veto, no? Ricordiamo, nel Consiglio di sicurezza. Ci sono anche i diritti di veto dei cinque membri permanenti. Sì. Va bene. Quindi, voglio dire, prima di arrivare a una risoluzione bisogna anche fare in modo che questa risoluzione passi, perché se poi non passa è certamente un problema politico, ma io questo lo vedo dall'Olanda, quindi non mi compete. Io intanto la ringrazio, dottor Tarfus, per essere stato con noi. Voglio ricordare che Cuno Tarfus era giudice alla Corte Penale Internazionale dell'AIA e ci ha spiegato se e come, quali sono le procedure eventualmente per incriminare Gheddafi. Non so, crimini contro l'umanità potrebbe essere il reato più ipotizzabile visto quello che sta succedendo. Noi ci fermiamo nel sondaggio di oggi, parliamo alla fine di questo emendamento mille proroghe, lo facciamo concentrandoci su questo emendamento. E vale a dire il maxi condono, la sanatoria per le affissioni abusive dei manifesti in campagna elettorale. Vi stupisce questa mossa dei partiti che si sono condonati? Vi spieghiamo come. Tutto questo nel mille proroghe tra poco. 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta, il sondaggio su radio24.it. 24 mattino. Le 8:35 minuti, eccoci qua per il nostro sondaggio. Parliamo oggi di questo emendamento nel decreto mille proroghe. Io da qualche giorno, insomma, battiamo il tasto su questo, sull'emendamento che prevede una sanatoria per le multe che i partiti dovrebbero pagare per i manifesti affissi abusivamente durante l'ultima campagna elettorale, e che nel decreto mille proroghe è passata così in cavalleria, un condono. Io sono o blanco o negro, gris non voglio essere in mia vita. Bianco o nero? Il condono per i manifesti elettorali abusivi. La domanda che noi vi poniamo nel nostro sondaggio è: vi stupisce questo condono? Siete stupiti? C'è da dire che sull'onda dell'antipolitica il 79% dice di no. Allora, intanto io devo dire, il condono è a firma, l'emendamento di due senatori, è bipartisan. Il senatore Mario Gasbardi del Partito Democratico, che abbiamo inseguito per vari giorni, ieri abbiamo chiamato anche il tesoriere del partito, l'onorevole Antonio Misiani, che ha detto: apprendo da voi questa notizia che esiste questo emendamento. Strano, perché come tesoriere del partito dovrebbe saperlo e dovrebbe gioirne. E alla fine il senatore Gasbarri ha deciso di non parlare, di non intervenire. Il secondo firmatario dell'emendamento è il senatore Francesco Casoli del Popolo della Libertà, che saluto. Buongiorno senatore. Buongiorno a lei e a tutti. E io di questo devo dire, insomma, non ho problema, perché gli emendamenti sono cose politiche che uno può fare, sono legittime, però io la ringrazio di essere qui, insomma, a metterci la faccia o la voce, insomma, per spiegarci questo emendamento. E no, ma sa, non tutti come ha sentito lo fanno. Intanto voglio salutare anche il segretario dei radicali Mario Staderini, che ritorna con noi. Buongiorno Staderini. Buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori. E che radicali che, insomma, puntano molto a dire: ecco, l'ennesimo regalo della casta, che si fa la casta. Allora, senatore Casoli, c'è da spiegare questo condono, 1.000 euro a provincia per sanare le multe che invece sarebbero di vari milioni di euro. Che cos'è, un regalo che si fanno i partiti? Vabbè, innanzitutto chiediamo una cosa: questo è un emendamento che è stato questa volta presentato dal PD. Io faccio il vicepresidente del gruppo al Senato per il PDL e mi è stato chiesto di, tra virgolette, immolarmi su questo emendamento, e io l'ho fatto. Con questo non significa che mi sono messo lì a scrivere il condono, e non significa che di questo io ne faccia la mia bandiera. Bella però l'immagine, immolarmi, no? Beh sì, immolarmi, perché visto che siamo qua a metterci la faccia, e indubbiamente non è poi così semplice, ma non c'è problema. Non c'è problema perché non c'è problema per quanto mi riguarda, perché vede, lei ha parlato della cavalleria, che è tutto quanto andato in cavalleria, ma questa cosa qua, questo emendamento è passato con il voto di tutti. Ah certo, certo. Di tutti significa da estrema sinistra a estrema destra, e che non è che questa cosa qui si occupa solamente dei partiti, si occupa di tutte le liste. E io vi ricordo che quando ci sono le votazioni per le regionali, per le provinciali, per tutte quante le amministrazioni locali, il problema non è solamente dei partiti, ma il problema è un po' di tutte le liste, sì, che presentano. Sì. Detto questo, questa è una cosa che ci trasciniamo da una decina d'anni, quindi non è una cosa nuova. Mm-hmm. È chiaro, questo è il momento, come lei giustamente diceva, della tra virgolette antipolitica, e quindi ci sono il massimo dei riflettori. E fa notizia più adesso, giusto, di prima. Ed è giusto che ci sia, perché stiamo parlando di una cosa che deve cambiare. Quindi stiamo parlando di una cosa che a cui bisogna che mettiamo mano. Oggi con noi c'è il segretario del Partito Radicale, sì, che sicuramente su questo argomento ha fatto e sta facendo una battaglia. Io ieri, proprio sull'onda di questa cosa, perché io mi sono immolato per questa cosa, poi ho incominciato un attimino a ragionarci sopra, e sull'onda di questa, di questo ragionamento, ieri ho presentato un disegno di legge per cercare di cambiare, che poi alla fine, se è 10 anni che questa cosa... E qualcosa va fatto, dice. Sì, qualcosa va fatto, perché significa che c'è qualcosa che non... Ma allora, guardi, sentiamo senatore Casoli, appunto Mario Staderini, voi Staderini dei Radicali avete anche quantificato quanto è il, io li chiamo, regalo, insomma il senatore Casoli qui dice io mi sono immolato, però è effettivamente... Io dico molto meglio farlo e dire mi sono immolato che farlo e scomparire o dire non sappiamo nulla, no? E vabbè, però questa è un'altra considerazione. Quant'è la cifra, Staderini, di questo regalo ai partiti? Ma noi abbiamo stimato che per ogni elezione di livello nazionale parliamo di 80-100 milioni di euro le multe non pagate tradizionalmente dai partiti, e questo perché, chiariamolo agli ascoltatori, durante ogni campagna elettorale, ma non solo, durante tutto l'anno, c'è in molte città questo fenomeno dei manifesti abusivi che da una parte deturpano la città essendo messi su muri, cassonetti, su pellettri stradali, dall'altra vengono messi negli spazi irregolari al posto, rubando lo spazio ad altri partiti. La questione quindi è una questione non solo di moralità, ma è una questione innanzitutto di democrazia. Perché? Perché il messaggio che passa è che chi viola le leggi sulla propaganda politica, delle leggi fondamentali, sono quelle del processo elettorale e della formazione del consenso, è favorito. Chi invece rispetta le regole, come noi radicali ad esempio, che non mettiamo manifesti da anni perché ci rifiutiamo di sottostare all'aspetto criminale dell'affissione, è fesso. Insomma, roba da far impallidire pure Scettola qualunque. Infatti quando il senatore parla di tutti i partiti, no, attenzione, sì, quasi tutti, dove dice quasi i radicali no. I radicali, perché noi non abbiamo una multa e quindi non abbiamo niente da farci condonare. No, però quello che diceva il senatore Casoli è a capire, cioè che tutti adesso, tutti si smarcano, però in realtà tutti, almeno i partiti, tranne i radicali, e tutti i partiti ne beneficiano, tutti quelli che hanno fatto le affissioni abusive, no? E per questo, credo questo, senatore Casoli, che fosse il senso del suo immolarsi. No, guarda, il senso del discorso era esattamente questo qua, perché un po' dopo alla fine ci mancherebbe altro. Staderini, io difatti rispetto la sua posizione e quello che lui dice è inconfutabile. Però ripeto, qui il problema vero, perché poi dopo dietro questa facciata di cui stiamo parlando, qual è il problema vero? È che quando si fanno le campagne elettorali, chi va a attaccare i manifesti non sono i professionisti, quindi gli attacchini, quelli che giornalmente si vedono in giro per le città, sono gli attivisti, sono quelli che spinti anche dall'onda dell'entusiasmo del momento della campagna elettorale si lasciano andare a azioni di disturbo quasi, sì, non voglio usare, sì, questa parola in maniera riduttiva, però quasi goliardiche, e non intendo questa cosa una cosa goliardica, ma questo... il momento sotto la pressione, sotto l'entusiasmo della campagna elettorale può succedere, nel senso che succede. Quindi magari ragioniamo su questa cosa qua, perché l'obiettivo del legislatore... Ma che vuol dire? Cioè ragioniamo, cioè depenalizziamo la cosa? No, ragioniamo su questa cosa qua, nel senso che l'obiettivo nostro qual è? È che che non si usi mettere il proprio manifesto... Che non si imbratti la città. E che non si deturpino le città. Allora, qual è... qual è l'obiettivo che ci dobbiamo dare? Quindi non facciamo deturpare le città. Allora, il mio ragionamento è questo. Se tu attacchi il manifesto in giro per la città, io ti faccio una multa molto più alta di questa. Ma ti faccio un grande sconto se tu nel giro di pochi giorni, 7, li levi tutti quanti. Quindi tu pulisci e paghi meno. Paghi meno, non paghi nulla. Sì, paghi meno. Perché perché se noi facciamo paghi tanto, poi alla fine quest'anno si è immollato Gasoli e Gasbarri e l'anno prossimo si immollerà. L'anno prossimo un'altra, sì, negli altri, negli anni scorsi erano altri. Va bene Staderini questa proposta, poi dopo vi voglio far sentire dopo il traffico cosa hanno combinato le Iene. Le va bene questa proposta Staderini? Paghi meno ma li togli? No, non va bene perché appunto come dicevo qua dal 1996 vanno avanti ininterrotti i condoni. Io ho calcolato che è più di un miliardo di euro la cifra risparmiata, ma sono decine di milioni di euro le spese che effettivamente i comuni fanno. In più queste condoni lasciano dei vuoti delle casse comunali perché i comuni hanno già iscritto a bilancio. Ma vorrei dire di più, qua non si tratta di entusiasmo dei militanti che attaccano. Io 2 anni fa, le Iene, Paolo Gabber Calabresi andò dalla principale società di Milano fingendosi mio assistente, ero candidato alle europee, e ebbe la certezza che i mandanti erano ben consapevoli, i mandanti stiamo parlando di persone che attualmente sono o segretari di partito nell'opposizione o ministri della Repubblica attualmente, sì. E i mandanti avevano chiara l'idea che pagando 2, 20, 30 centesimi in più avevano la garanzia di poter fare il cosiddetto manifesto. Quindi insomma i mandanti fatto. Importanti, ma siccome ha citato Calabresi, dopo il traffico lo voglio far sentire, le Iene hanno colpito su questo, sempre Calabresi è un sunto, è straordinario. È 1 minuto e mezzo l'abbiamo selezionato, ma dopo il traffico, non voglio anticiparvi tutto. Io soy o blanco o negro, gris no voy a hacer en mi vida. Bianco o nero? Allora, nel milleproroghe c'è questo condono, i manifesti elettorali abusivi, invece di pagare le multe, i partiti con 1.000 euro a provincia si condoneranno tutto. Voglio far ascoltare un estratto sempre di Paolo Calabresi, delle Iene, che è andato da qualche politico a dire c'ho una multa per divieto di sosta, toglietemela a questo punto. I nomi non contano, le voci qualcuno le riconoscerete, sentite qualche risposta dei politici. Le devo chiedere un favore, mi hanno fatto sta multa, 85 euro, divieto di sosta, ma la fa a condonare? Ma lei è pazza? No, è perché? Ma con chi crede di parlare? Scusate. Oggi si condonano le multe. La paghi e la paghi. Vanno pagate le multe. Ma certamente. Anche i partiti le devono pagare, no? Io addirittura farei in modo che per pagare le multe relative all'imbrattamento della città i partiti potessero essere pignorati. Lei mi le prore che vota contro o a favore? Io il mille prore che voto a favore. Eccola là, ogni volta vi condonate le multe. Ma non credo, adesso non so chi della proposta. Gasparri, senatore Gasparri, per il PD. Ha sbagliato. C'ho questo problema, senatore, che mi hanno fatto sta multa per divieto di sosta. La toglie lei? No. Come no? Oggi, come oggi votate il mille proroghe? E allora? Condonate le multe per le affissioni abusive che fate voi nei comuni? Non lo so, non lo sa. Non abbiamo fatto condoni noi. Come, non avete fatti? No, è una cosa per i partiti, non per i singoli cittadini. Quindi la gente deve sapere chi votare, quindi quando lo va a attaccare i manifesti fa un po'. Certo, però non ci stanno gli spazi e quindi. È un'esigenza democratica. È un'esigenza democratica. Attacchiamo se i nostri faccioni belli come questo dove ci pare. Anche al Colosseo. Tanto non paghiamo, è tutto condonato. No, il Colosseo no, degli spazi no. Però sotto casa mia sì. Ti prego, lasciami perdere. Lei è d'accordo che. Ma non sono d'accordo, paga le multe, non rompere. Paga le multe, non rompere. Dice paga le multe e non rompe i coglioni. Noi le multe le paghiamo, però se siamo pure già rotti i coglioni. E allora, Salvatore da Roma, buongiorno. Buongiorno. Dica. Niente, il fenomeno non riguarda la campagna elettorale, quello è l'ultimo dei problemi. Il fenomeno è costante. Vi faccio un esempio banale. Io ho un'azienda che fa pubblicità, insomma, si pubblicizza, quindi compro la pubblicità. Sì. Regolarmente è coperta dal convegno del centrodestra, del centrosinistra. La chicca è, abbiamo riorganizzato il sistema delle affissioni sul mio manifesto che avevo pagato. Cioè, le ha messo un manifesto, cioè, un manifesto che sul manifesto suo che lei aveva pagato un'altra. Dicendo abbiamo riorganizzato il sistema affissioni. Dica. Non faccio nome ovviamente, un politico di un partito che è bravissimo, è sempre presente, la festa dei nonni, auguri ai nonni, la festa della mamma, auguri alla mamma, sempre, e Zonappio, chi mi sente da Roma a Zonappio saprà sicuramente di chi parla. Vabbè, ma magari paga tutto, tutto abusivo, glielo garantisco, sui cassonetti, sulle sue postazioni, e io le ho pagate, con la 15ina le pago, e puntualmente viene coperto. Vabbè, ma la mamma, dai, la nonna. È il papà. Viva sì. I nonni allora. Viva i nonni. Grazie Salvatore. Fabio da Modena, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Io volevo dire che sono scandalizzato da quello che sto sentendo questa mattina. Dai, non si scandalizzi. Si scandalizza allora. Dica. E le dico anche perché. I partiti sono sempre d'accordo, io non sto a fare paragoni destra-sinistra, non c'entra questo. Sono d'accordo per aumentarsi lo stipendio e per togliersi le tasse. A dire la verità se lo sono diminuito, è molto alto sempre, ma se lo sono diminuito. Questo per correttezza. E la seconda cosa, sento che l'onorevole che dice lui di essersi così tanto immolato, a parte che io non mi immolo su una cosa che non ci credo, ma si è immolato per la causa di proporre una legge che mette su i cartelli e dopo una settimana se non li toglie paga meno. Allora io parcheggio in doppia fila, se la tolgo entro 5 minuti invece di pagare 50 euro di multa ne pago 20 perché è stato 2 minuti. Le leggi, siamo al solito punto dell'Italia, le leggi vanno fatte e facciamo sempre la scappatoia per scappare. Grazie. Quindi, Fabio, senatore Casoli, risponda all'ascoltatore che insomma lei che si è immolato e che dice... L'argomento è complesso, chiaramente io mi sono immolato a firmare, mi sono immolato questa mattina. Sì, esatto. L'immolatore la chiameremo al Senato. Non c'è problema, io lo faccio, sono di Fabriano, vicino, c'è San Francesco d'Assisi, siamo in una località abbastanza dove ci sentiamo abbastanza maschili. Comunque, a parte questo, a parte le battute che chiaramente l'argomento è serissimo, certo. Io ho presentato, ripeto, un disegno di legge, l'ho depositato e il disegno di legge dice che aumentiamo le sanzioni, non dice diminuiamo le sanzioni. Il disegno di legge dice le diminuiamo se le diminuiamo, non le eliminiamo, facciamo pagare qualcosa. Però questo che l'ascoltatore contestava, cioè dire l'idea paghi un po' meno, noi non possiamo generalizzare, non possiamo metterci a dire vabbè perché allora io le multe le prendo, perché non è vero, perché magari una multa la prendo, se non pago entro 8 giorni poi la multa aumenta, si raddoppia. Cioè, poi ripeto, qui non è che stiamo parlando di, qui parliamo sempre di partiti, ripeto, qui stiamo parlando di partiti e delle liste, tutti quelli che si sono tutti quelli che quindi, hanno affisso, e quindi anche le liste, quindi sono anche soggetti che, a cui non si può pignorare niente, soggetti un po' più delicati rispetto alla forza che magari può avere un partito. E finisco con una cosa, giustamente qui ci stiamo mettendo la lente di ingrandimento, però attenzione che questo è un problema che riguarda i grandi comuni che devono spendere un sacco di soldi per i controlli che non hanno la possibilità di fare, e quindi grande confusione in giro per il comune. I piccoli comuni che invece hanno la possibilità di avere maggiore controllo, questi grandi problemi non li hanno. Allora, con il mio disegno di legge dove io ti impongo di levare i manifesti, evito al grande comune di spendere un sacco di soldi e magari poi di non farlo, e quindi lasciare tutte quante le città. Tanto voglio dire, tanto i soldi non vengono comunque incassati, questo si sa. Staderini, qui io da qualche giorno ho proposto di andare a fare una ola davanti al Quirinale se le osservazioni il capo dello Stato avessero portato a delle modifiche del mille proroghe, togliendo anche questo emendamento, ma insomma le modifiche ci sono state, ma questo emendamento è rimasto e quindi niente ola al Quirinale. Io il 16 febbraio, subito dopo che era stato approvato in Senato, ho scritto al presidente Napolitano sottoponendogli una questione. Io non è che faccio come quelli che dicono Napolitano non firmi, facendo finta che lui sia la Corte Costituzionale. Gli ho chiesto se era tollerabile che il Parlamento stesso fosse colui l'istituzione che adottava un atto contro i principi democratici dello Stato di diritto, perché abbiamo ripetuto: danni per i comuni, danni per i cittadini, furto di denaro ma anche furto di democrazia, perché il senatore Casoli su questo però non lo valuta. C'è chi come noi o come altri rispetta le leggi e a quel punto ha la certezza di non avere i propri manifesti affissi. Allora qua il problema è che si ritrova tra partiti e anche tra candidati addirittura un aumento delle spese di campagna elettorale, perché se ci vogliono 100.000 euro a candidato per fare una campagna di manifesti fatta bene, anziché 1.000 euro come basterebbe se ognuno rispetta i suoi spazi, c'è anche un aumento della campagna elettorale e poi quei soldi chi te li dà? Peraltro non vengono mai messi a bilancio. Ma c'è un'occasione. Il presidente Napolitano ha risposto a questo richiamo. Io gli avevo chiesto un messaggio alle Camere di avvertire il governo e il Parlamento. Lo ha fatto ovviamente non solo per la mia vicenda, ma il suo richiamo è stato tradito. Allora il senatore Casoli, io gli propongo, prendo atto effettivamente che ha avuto coraggio a metterci il volto anche oggi e la voce. però c'è un'occasione. Noi abbiamo presentato oggi alla Camera, domani al Senato, un ordine del giorno in cui si impegna il Parlamento, chiede al governo di impegnarsi a rimuovere subito dopo l'approvazione, perché c'è la fiducia di questo mille proroghe, a rimuovere questa sanatoria. Quindi si potrebbe votare il Parlamento. Staremo a vedere su questo. Mi devo fermare. Ringrazio Mario Stadolini dei Radicali Italiani e il senatore Casoli del Popolo della Libertà, che effettivamente si è immolato anche questa mattina, a differenza del senatore Gasbarri, ci spiace, del Partito Democratico, ma va detto. Che dire, con Elisabetta Fusconi, Alessandro Longoni in redazione e Peter Bescapè in regia, chiudiamo la settimana di 24 Mattino. A lunedì prossimo.